Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica. DJ Jet Telespro. Buon pomeriggio da GG Telesforo, questo è l'appuntamento numero 115 del Soundcheck di Radio 24, seconda parte dedicata alla storia dei supporti musicali. Ieri lo abbiamo raccontato, la musica ha iniziato a diffondersi con gli spartiti, quando è nata la scrittura musicale, gli spartiti giravano per il mondo e potevano essere suonati così dalle grandi orchestre e dai grandi musicisti dell'epoca. La svolta epocale arriva con l'invenzione della registrazione, che utilizzava principalmente due tipi di tecnologie: la microincisione su disco di materiale plastico e la registrazione di sequenze magnetiche su nastro. Nel 1870 viene inventato il grammofono, uno strumento meccanico privo di amplificazione che permetteva di suonare dischi che giravano a 78 giri e erano costruiti in gomma lacca, materiale plastico molto pesante e molto delicato. Il disco in vinile viene invece ufficialmente introdotto nel 1948 negli Stati Uniti proprio come evoluzione dei precedenti dischi a 78 giri. Il formato, con l'invenzione, con l'arrivo dell'elettricità e quindi l'invenzione del giradischi, si riduce a 33 giri e poi a 45 giri, e l'invenzione anche del mangiadischi che ci ha permesso già a partire dai primi anni 60 di poter utilizzare questo strumento che funziona anche a batterie, e quindi la possibilità di poter ascoltare la nostra musica preferita anche in spiaggia. Per quanto riguarda invece le registrazioni su nastro, quindi le sequenze magnetiche, ecco, la timeline ci ricorda che sin dagli anni 30 si iniziarono a diffondere alcuni registratori magnetici, con un primo brevetto del 1947 a opera di un inventore, possiamo chiamarlo così, italiano, Arrigo Castelli, che lavorava per la ditta italiana Geloso. E la diffusione di questi apparecchi, di questi registratori a bobine di dimensioni anche abbastanza ingombranti, rimase prevalentemente riservata agli ambienti professionali, fino a quando non fu introdotta nel 1963 la musicassetta a opera della Philips. In seguito, nel 66, arriva lo stereo 8, formato per la riproduzione musicale delle automobili. Infatti era utilizzato lo stereo 8 come optional su alcuni modelli delle autovetture Ford del 1966, ma la svolta epocale arriva nel 1979. Sì, una grande invenzione, l'invenzione della Sony, il primo lettore portatile che utilizzava la musicassetta, ovvero il Walkman. Cry for No Hipsters, il nuovo album di Ben Sidran, il brano era Can We Talk, presente in questo appuntamento del Soundcheck di Radio 24 dedicato alla storia dei supporti musicali. Soundcheck, il suono della musica. Vinile del 1957 intitolato Born to Sing the Blues, la voce bellissima, inimitabile, forte, potente di Shirley Bassey con gli arrangiamenti del maestro Nelson Riddle, che troverete oggi in formato CD anche in Italia per la distribuzione della ottima distributrice Egea, che da sempre cura musica di grandissima qualità, e quindi una masterizzazione di quello che un tempo era un vinile di qualità in formato digitale. Siamo arrivati ai CD, sì, perché i primi prototipi di dischi ottici nacquero negli Stati Uniti nei primi anni 60 sulla scia del supporto video Laserdisc, per poi diffondersi realmente dal 1983. Questi supporti, costituiti da un disco piatto e sottile in genere di policarbonato trasparente, contengono al loro interno un sottile foglio metallico in genere di alluminio su cui vengono registrate e lette tramite un raggio laser tutte le informazioni audio. A partire dagli anni 80 si sono così sviluppati diversi formati basati su dischi ottici, ma il più stabile e duraturo è stato fino ad ora il CD, il Compact Disc, che nasce nel 1979 dalla collaborazione di due multinazionali devote alla musica e al suono come la Philips e la Sony, che diffondono nel decennio successivo in tutto il mondo questo nuovo formato parallelamente ai relativi lettori. Il CD effettivamente permette di ridurre in maniera notevole il rapporto tra le dimensioni del supporto e la quantità di dati immagazzinabili, circa 80 minuti di musica su un piccolo CD, impensabile per il vecchio vinile, addirittura per il vecchio 78 giri. Siamo proprio nel futuro, nella Blade Runner della musica. In seguito arriva il Super Audio CD, che utilizza la tecnologia tipica del DVD introdotta poco prima del 2000, che permette la memorizzazione di tracce audio di qualità decisamente superiore, introducendo nel mondo anche l'ascolto musicale con una riproduzione su impianti 5.1, quindi 5 canali più il subwoofer, una diffusione musicale tipica del cinema con la tecnologia surround. E certamente questo nuovo CD intitolato A Day in Nashville di Robin Ford ha la classica stereofonia, ma con un ottimo suono proposto dal chitarrista Robin Ford. Il brano si intitola Ain't Drinking Beer No More. It might have to stop. Ain't drinking beer no more. We knew the work of monks could lead to so many drunks. Soundcheck, il suono della musica. E approdiamo così all'era della registrazione digitale con il supporto CD, ma negli ultimi 20 anni, grazie anche alla crescente miniaturizzazione degli apparati informatici, sono stati creati degli apparecchi tascabili per riprodurre file digitali da memorie fisse e facilmente riscrivibili. Negli ultimi anni si sono quindi diffusi diversi formati di memorizzazione, ma in seguito i lettori si sono uniformati rapidamente verso un unico formato di memorizzazione, che è il formato più conosciuto, il formato audio compresso MP3, che è il formato dominante sul mercato musicale contemporaneo. Che cos'è l'MP3? Ecco, l'MP3 è semplicemente un algoritmo di compressione audio che è stato sviluppato tecnologicamente dal gruppo MPEG e è in grado di ridurre drasticamente la quantità di dati richiesti per memorizzare un suono, rimanendo comunque una riproduzione accettabilmente fedele del file originale non compresso, anche se ci sono degli appassionati di musica, degli ottimi ascoltatori che sono in grado di riconoscere la differenza nel suono confrontando l'audio di un CD originale o addirittura di un vinile, quindi con un suono analogico, rispetto al formato MP3. Perché l'MP3 è così ampiamente utilizzato? Beh, intanto perché la maggior maggior parte degli utenti della nuova generazione ha familiarità con il formato e anche perché la maggior parte della musica disponibile oggi è in formato MP3. Sì, ci sono una grande varietà di software e di hardware che hanno ottenuto dei notevoli vantaggi da questo formato, rivoluzionando l'industria musicale e anche le leggi sul copyright. Sì, perché non ci sono poi alla fine dei controlli sulla copia e la distribuzione degli MP3, formato che consente il download anche dei singoli brani a utenti che non hanno una connessione veloce come la DSL e quindi possono scaricare molte ore di musica nei loro lettori multimediali e oggi anche sui nostri telefonini. Mi auguro però che gli appassionati di musica facciano un download assolutamente legale, pagando, di questo album splendido prodotto da Pat Metheny con la nuova formazione The Unity Group. Per Pat Metheny l'album si intitola Keen, lo abbiamo già presentato qui al Soundcheck di Radio 24 dedicando a Pat Metheny un'intera puntata. Il brano è We Go On. Pat Metheny, Unity Group, al Soundcheck di Radio 24. E così, con l'avvento di supporti musicali che permettono una facile e più economica copia come le musicassette e poi i CD, si inizia a sviluppare la pratica della pirateria musicale, che consiste, come sappiamo, nella produzione e distribuzione illegale di materiale coperto da copyright, e è una pratica che ha il suo motore nella convenienza economica dell'acquisto del supporto copiato, data l'assenza dei costi dovuti alla proprietà intellettuale, quindi al copyright, al diritto d'autore, e ai minori costi della confezione, che solitamente è meno accurata e di minore valore economico. C'è una seconda fase della pirateria musicale che si apre con la diffusione di internet, degli MP3, mezzo tramite il quale il materiale musicale diviene oggetto della pirateria informatica. Quindi, raccomandando a tutti voi l'acquisto legale con download garantito, magari attraverso iTunes, della nostra musica preferita, non mi resta che salutarvi con le note di questa composizione scritta insieme all'amico Ben Sidran. Il brano si intitola So Cool e a tutti voi buona giornata, buon weekend e buona musica da Gigi Telesforo. Check. Il suono della musica.